La vostra inchiesta cosa avete scoperto? Ma anzitutto che, come dicevi giustamente, non è solo un problema italiano, è un problema europeo, tant'è che addirittura in Inghilterra è nato un sito proprio dedicato al problema delle buche, e se uno vuole andarselo a vedere www.pottles.co.uk. Ed è un sito in cui si raccolgono segnalazioni di dove sono appunto le situazioni più gravi, ma si spiega anche come eventualmente fare causa alle amministrazioni locali, come chiedere alle assicurazioni un rimborso, tutte queste cose qui, insomma un sito molto pratico. E poi invece abbiamo scoperto che in Germania c'è una piccola città che addirittura, non avendo soldi per riparare tutte le buche che si sono aperte dopo la fine della stagione invernale, ha deciso di farle sponsorizzare, quindi i privati cittadini o le aziende possono riparare un tratto di strada e poi mettere un cartello dicendo questo tratto è stato riparato dal tal dei tali. In Italia non ci siamo, purtroppo ci teniamo le buche, anche perché molto spesso la qualità dei nostri asfalti, visto anche le gare al ribasso che vengono effettuate dalle amministrazioni responsabili appunto della gestione delle strade, fanno sì che gli interventi vengano fatti in modo veramente scadente, con materiale non all'altezza di quello che richiederebbe il traffico di oggi.